cura e fai di tutto per mascherare i tuoi difetti. Ti senti in colpa, come se non ti dovessi meritare gli altri, come se non ti dovessero considerare un essere speciale, o come se non fosse evidente che sei splendente e semplicemente ad ogni sbaglio sei sempre meglio. Io amo le disarmonie del tuo spirito e le contraddizioni del tuo fisico. Amo il tuo soffio vitale, il tuo continuo inciampare, il tuo sorriso speciale che fa brillare. Se fossi sopra un palcoscenico con luce gelida e con un faro che ti giudica, e dopo cadi, inciampi così ti prende il panico, senza capire bene che vederti vivere è magnifico e semplicemente ad ogni sbaglio sei sempre meglio. Io amo le disarmonie del tuo spirito e le contraddizioni del tuo fisico. Amo il tuo soffio vitale, il tuo continuo inciampare, il tuo sorriso speciale che fa brillare. Il tuo sorriso speciale che...